mamma e prega per me. Il mondo va più veloce di me. Per non pensare, alzo così tanto da farmi male, dimenticando tutto quello che so, tutto quello che so. Rotolo e rimbalzo tra l'inferno e il cielo, tra demoni privati e santi extravangelo, perdendo terreno ma il fiato è quello che è. Prega un poco per me. Partecipo al gioco e non so fare, che vinca o che perda, io voglio provare. Mamma e prega perché il mondo va più veloce di me.